Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Come preannunciato anche nel corso del giornale radio, oggi siamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, lo saremo anche domani. Il festival si inaugura oggi pomeriggio, lo avete sentito anche questa mattina da Simone Spezia nel corso di 9 in punto. Il tema prescelto quest'anno per questo evento è sovranità in conflitto, un tema del quale si è discusso largamente negli ultimi anni, come sapete, perché i paesi dell'Eurozona in particolar modo sono stati molto in conflitto tra di loro, proprio quando nel momento più acuto della crisi di un paio d'anni fa discutevano anche in certi momenti di come alcune di queste economie, quelle più precarie, quelle più in difficoltà, avrebbero dovuto, secondo qualcun altro, invece uscire dall'Eurozona. Temi dei quali si discute ancora oggi, c'è un'apparente maggiore serenità, ma la crisi scoppiata nel 2007 con i mutui subprime, per la verità, ancora sta propagando in maniera molto forte i suoi le sue conseguenze. I temi del Festival dell'Economia li portiamo oggi anche a Salva Danaio, e per farlo chiaramente vorremmo coinvolgere anche voi ascoltatori, perché vorremmo chiedervi quanto e come siete interessati al tema del rischio sovrano. È un tema che ha riguardato molto da vicino anche il nostro paese, soprattutto come ricorderete un paio d'anni fa, quando ci fu il clamoroso cambio di guardia al vertice di governo. Fu chiamato, ricorderete, il governo tecnico, perché il famoso spread volò alle stelle, e ad un certo punto si fece molto insistente l'ipotesi che addirittura il nostro paese potesse diventare insolvente nei confronti della comunità di investitori internazionali, cioè che il nostro paese non fosse più in grado ad un certo punto di ripagare il suo debito. Sono tante considerazioni che fa anche nel suo libro Il rischio sovrano, conoscerlo, valutarlo e gestirlo, Donato Giannico, che è il country manager per l'Italia di Raiffeisen. Intanto lo saluto, buongiorno Giannico e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno. Ci a tutti sente? Gli ascoltatori. Raiffeisen Capital Management è la società di gestione del risparmio del maggior gruppo bancario austriaco, appunto Raiffeisen Bank, e lui ha scritto questo libro, quindi questa mattina ci sembrava l'occasione giusta per invitarla a Salva Danaio. Giannico, quindi grazie ancora per la sua disponibilità. Parleremo di questi argomenti, ma naturalmente parleremo anche dell'approccio del piccolo investitore italiano nei confronti del titolo di Stato. Per la verità, la fiducia nei confronti dell'obbligazione governativa italiana da parte dell'investitore domestico non è mai mancata, però ci sono stati anche dei momenti in cui il piccolo risparmiatore italiano ha dovuto prendere confidenza con un aspetto nuovo rispetto a questo investimento, cioè il fatto che non fosse più un investimento privo di rischio. 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi, chiamateci se volete anche questa mattina, oppure scriveteci le vostre riflessioni al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook, su Twitter. Adesso la giornata di borsa. Una giornata molto interessante perché, come vi raccontavo anche nel corso del giornale radio, c'è stata un'asta di titoli di Stato. Questa mattina il Tesoro, il Ministero dell'Economia, ha collocato BTP a 5-10 anni per 5 miliardi e 750 milioni di euro, la terza asta della settimana, l'ultimo appuntamento del mese, e il Tesoro continua ancora in queste operazioni che peraltro hanno permesso appunto al Ministero dell'Economia di chiudere in maniera anticipata appunto la metà delle emissioni appunto previste per quest'anno. I BTP a 5-10 anni questa mattina sono stati collocati tutti senza problemi, ma il mercato ha chiesto rendimenti leggermente più alti rispetto alle aste di aprile. Per il BTP a 10 anni, quello che confrontiamo sempre con il Bund tedesco calcolando lo spread, il rendimento appunto per questa scadenza ha di nuovo risuperato il 4%, per il BTP a 5 anni siamo ritornati sopra il 3%. Non è stata una sorpresa più di tanto a quanto pare per gli operatori, perché in realtà questi rendimenti si sono allineati a quelli che già da qualche giorno si stavano registrando sul mercato secondario. In tutto questo la borsa risponde positivamente, nessun tipo di riflessione particolarmente significativa da parte del mercato azionario. Il FTSE MIB Piazza Affari guadagna lo 0,7%, positive anche le altre piazze europee, però in misura leggermente inferiore rispetto a Milano. Per Parigi più 0,4%, Francoforte più 0,11%, Madrid più 0,04%, niente a che vedere con quello che di nuovo stamattina è accaduto in Giappone, perché il Nikkei 225 ha avuto un'altra batosta, meno 5,15%, e un mercato che naturalmente reagisci anche alle enormi crescite che il mercato giapponese ha registrato negli ultimi mesi. Sentiamo intanto qualche botta da fuori dal nostro studio qui in Piazzetta Pasi a Trento, molto movimento da parte di molti ascoltatori che peraltro stanno curiosando attorno alla nostra postazione. Vi dicevo appunto per il mercato giapponese, chiaramente queste prestazioni erano anche per qualcuno abbastanza attese, visto che il mercato nipponico è cresciuto di circa il 50-60% dall'inizio dell'anno, e poi questa corsa si è enfatizzata dopo le decisioni della Banca Centrale del Giappone di attuare politiche monetarie appunto straordinarie per sostenere l'economia. Per cui se una borsa cresce del 60% in 3 mesi, magari in una giornata, un calo del 5% è anche come dire, considerata quasi fisiologica. Giannico, è d'accordo con queste considerazioni? Intanto parto subito con il Giappone, con lei. Sì. Beh, sicuramente le correzioni e gli storni davanti a un progresso e un rialzo così importante, specialmente dopo tantissimi anni, sono più che salutari, questo è sicuro ed è ricorrente nel nostro sistema finanziario mondiale, questo è normale direi. È chiaro che il Giappone si sta avventurando in una politica diciamo molto molto coraggiosa che vuole che la sua economia esca sicuramente dalla deflazione dopo tantissimi anni, e questa sicuramente può portare benefici, ma così come può portare anche rischi, perché come sappiamo il debito giapponese è sostanzialmente detenuto dai cittadini giapponesi a oggi, ma non sarà più così completamente nel futuro, e questo provoca diciamo l'esposizione del debito giapponese ai mercati, e quando questo avviene naturalmente diventa anche diciamo più rischioso rispetto a prima, no? Da questo punto. La volatilità diciamo di queste ultime settimane è più giustificata anche da questi aspetti. Peraltro non vorrei che inaugurassimo adesso questa stagione dei giovedì neri, perché il meno 7% è stato fatto appunto dal Giappone giovedì scorso, poi certo. Un po' più di tranquillità, un altro giovedì meno 5, chissà giovedì prossimo che tipo di prestazione vedremo. Prima di parlare del suo libro, Giannico, le posso chiedere invece cosa pensa dell'esito delle aste di titoli di Stato di questa mattina del Tesoro italiano per determinare scadenze nelle altre giornate della settimana? Ad esempio per i CTZ di qualche giorno fa i rendimenti sono scivolati ai minimi storici, eravamo intorno all'1,11%, per le scadenze medie e lunghe invece siamo ritornati a risalire un pochino, niente di preoccupante, ma è un segnale che dobbiamo prendere in considerazione in maniera preoccupata oppure c'è ancora serenità? No, io direi che c'è ancora serenità, anzi rimarcherei il fatto che l'offerta diciamo inferiore alla domanda, quindi vuol dire che gli operatori istituzionali, nonché gli stessi cittadini italiani, ovvero i risparmiatori, reagiscono molto bene, quindi stanno sostenendo il fabbisogno che lo Stato ha relativamente diciamo al debito che ha, che sappiamo essere ingente, ma se guardiamo proprio le ultime 2-3 aste del mese di maggio vediamo che la domanda è superiore all'offerta, quindi questo è un gran buon segno, vuol dire che i cittadini, ripeto, e anche gli operatori istituzionali, al di là di quelli che sono i tassi, stanno sostenendo sicuramente il debito pubblico italiano, e questo da cittadini sicuramente è un buon segno, anche se i tassi poi si attestano intorno al 4% decennale, mi sembra abbastanza stabile, sicuramente sul breve termine non c'è molto rendimento, molto interesse, però mediamente diciamo che la domanda si attesta molto più per le scadenze lunghe, ho sentito parlare poi ultimamente anche di scadenze molto più lunghe, si sta provando anche con scadenze cinquantennali, ma diciamo che la notizia anche per il positiva. Tesoro italiano? No, non mi pare che ci sia un'emissione di questo tipo in programma. No, non ce n'è mai. Noi siamo ritornati sul trentennale qualche settimana fa. Sì. Però ecco, la notizia positiva che io rimarcherei è proprio la domanda che supera l'offerta. Questa è la cosa più importante, ecco. Benissimo, senta, invece magari un altro aspetto che può essere preso in considerazione sempre relativamente ai tassi di rendimento che per fortuna sono ritornati un po' a scendere da qualche mese a questa parte e lo spread ha mollato la sua presa, è in realtà come dire una tendenza che da qualcuno viene osservata anche in maniera un po' contraddittoria, perché chiaramente per le casse dello Stato, per la spesa sugli interessi, queste sono assolutamente buone notizie, quindi chiaramente l'Italia potrà continuare ad andare a rifinanziare le sue debito senza problemi se i livelli appunto dei rendimenti si mantengono su questi questi target, su queste soglie. Dall'altra parte c'è anche chi dice ma non vorrei che i rendimenti dei titoli italiani scendessero troppo, perché anche questo aspetto potrebbe indurre gli investitori internazionali ad allontanarsi. Ma non siamo proprio mai contenti? Esistono dei livelli giusti di rendimenti a seconda delle scadenze, Giannico? Ma sicuramente sì, beh, c'è la tendenza a non essere mai contenti. La cosa, diciamo, più importante da sottolineare in questo aspetto è questa. Al di là della prospettiva del risparmiatore, dobbiamo considerare questo, che l'Italia sarebbe in avanzo primario se non ci fosse, diciamo, da ripagare gli interessi sul debito dello Stato, no? Da questo punto di vista, così come ha fatto giustamente osservare lei, il fatto che i tassi di interesse siano o erano molto più elevati di oggi, faceva sì che noi andavamo ovviamente in deficit, no? Da questo punto di vista. Quindi meno interessi si pagano e più possibilità c'è di ritornare teoricamente nel futuro l'avanzo primario. Questo è un gran bel segno dal punto di vista, diciamo, dello Stato italiano. Quindi questo da cittadini ci potrebbe teoricamente apportare a magari pagare un pochino meno tasse, ad avere, diciamo, meno stretta di spese, eccetera. Questo della visione dei cittadini. Chiaramente su questa versione, voglio dire, da questa visione non può accontentare tutti i risparmiatori, cioè è il gioco un po' della coperta, no? Quindi è chiaro che se da cittadini magari tendenzialmente potremmo guadagnarci qualcosa, viceversa da risparmiatori ci perdiamo qualche cosina. Quindi tecnicamente la definirei un po' il gioco della coperta. Il risparmiatore deve essere sempre, come dire, osservante della cosa in due vesti, un po' da cittadino, un po' da risparmiatore, certo, e imprenditore, questo è importante. Senta, sempre a proposito, come dire, delle ricadute, delle varie circostanze anche economiche, internazionali sui cittadini, sui contribuenti, l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione, la notizia del giorno, anche se che, naturalmente con vincoli molto stringenti chiesti dall'Unione Europea nei confronti del nostro paese, è una buona notizia per il cittadino italiano, per il piccolo risparmiatore? Al breve termine sì, molto, è una gran bella notizia, perché vuol dire che non siamo sostanzialmente più, mi passi il termine, commissariati in senso stretto, no? In questo senso. Dall'altra parte però ci dicono di seguire delle regole molto stringenti e la speranza è quella di riuscire attraverso, diciamo, queste regole di riportare la nostra salute in maniera sicuramente migliore di quella che non è stata negli ultimi mesi, anni. Questo è importante. Però ecco, oggi dobbiamo, come dire, navigare a vista e prenderci il bello, perché sicuramente questa è un'ottima notizia. Ripeto, non sarà facile, alla luce delle regole che ci hanno imposto, giocare, diciamo, di manovre per poter uscire in maniera importante dalla crisi. Quindi questo ci porterà dall'altra parte a un'uscita un pochino più lunga nel tempo, questo sì. Allora, l'ho fatta un po' interloquire sui temi di più stretta attualità, che comunque le cui riflessioni non mancano anche nel libro che oggi voglio presentare, che lei ha scritto, non da solo, ma con la collaborazione di Fabrizio Crespi, docente di economia degli intermediari finanziari presso la Cattolica di Milano, e con Corrado Bei, un analista finanziario, appunto, quindi i suoi colleghi con i quali avete portato a termine appunto questo lavoro. Lo ricordo ancora, il rischio sovrano, conoscerlo, valutarlo, gestirlo, il tema di più grande attualità degli ultimi anni. Giannico, la prima domanda, lei lo sa, è d'obbligo: come nasce questa idea di appunto scrivere questo volume? Ma glielo chiedo banalmente per questo motivo: i libri che hanno ricostruito la crisi degli ultimi anni, in edicola, in libreria, ne troviamo tantissimi, cos'ha di diverso il suo? Diciamo, è uno sforzo per cercare di fare due cose sostanzialmente. La prima è questa: come lei accennava all'inizio della trasmissione, fino a qualche anno fa i risparmiatori, ovvero gli investitori, non erano assolutamente consapevoli che ci potesse essere un rischio di fallimento di uno Stato, proprio perché arrivavamo da una storia, al di là poi di situazioni, diciamo, diverse, quali l'Argentina, ma arrivavamo da una storia, da una tradizione dove nessuno si interessava al fatto che uno Stato potesse fallire, perché non era preso in considerazione assolutamente. Se succedeva dei paesi con determinate caratteristiche, il Sud America, chi proprio aveva, come dire, delle situazioni finanziarie già piuttosto allegre, ma storicamente questo, quindi non chi aveva invece tradizionalmente una solvibilità sui mercati sempre garantita. Esatto. Quindi diciamo che dopo la crisi Lehman, ma soprattutto dopo la crisi greca, ovviamente i mercati, ma anche gli investitori, hanno maturato la consapevolezza che gli stati potrebbero anche fallire. Ecco, il primo sforzo è stato Beh, tra gli investitori o tra gli operatori finanziari, anche se questa consapevolezza emerge quotidianamente dai media, eccetera, beh, forse non c'è la consapevolezza profonda del fatto che poi se succede qualcosa di deflagrante, no? E quindi il primo obiettivo è stato, beh, scriviamo un libro con cercando di aumentare la consapevolezza che questo può succedere, non perché succede e nessuno se lo augura, però è giusto che i risparmiatori e gli investitori, soprattutto i privati, siano più consapevoli, cosa che non mi sembra ancora, no, da questo punto di vista. Quindi l'obiettivo del libro va primo in questa direzione. Il secondo obiettivo è, siccome non c'era questa necessità di valutare la rischiosità primaria di un'obbligazione, perché abbiamo sempre visto le obbligazioni sotto il profilo del rendimento, perché ovviamente nessuno si dedicava a valutarne i rischi, abbiamo sempre visto i tassi di interesse come possibili rischi o le valute, se si comprava un'obbligazione in valuta diversa da quella euro, però ecco, nessuno si è ovviamente mai posto il problema di valutare il rischio di un paese, di un governo, di uno Stato sovrano, e qui c'è ancora molta meno consapevolezza nel mercato, non tanto negli operatori finanziari quanto negli risparmiatori privati, ma perché ovviamente tutto questo si è delegato sempre alle agenzie, quindi le agenzie di rating dicono delle cose e poi i flussi finanziari vanno sempre a finire nelle stesse direzioni. Noi abbiamo fatto un po' uno sforzo per cercare di capire quali sono i criteri, i metodi secondo i quali le agenzie di rating poi assegnano questo merito di credito, che è un po' la solvibilità, quindi la possibilità di restituirci il denaro, e abbiamo trovato un po' delle incoerenze, al di là poi di quelli che possono essere o meno e vari conflitti di interesse o meno, non abbiamo focalizzato, diciamo, il nostro libro su questo, abbiamo focalizzato il nostro libro su quello che sono le incoerenze, perché ovviamente valutare uno Stato non è una cosa così semplice, avendo trovato delle incoerenze abbiamo trovato appunto delle incoerenze dal punto di vista fondamentale, quindi degli Stati che magari hanno rapporti debito-PIL, che è un po' l'indicatore macroeconomico che tutti i risparmiatori ormai conoscono perché è sulla bocca di tutti, anche abbastanza inflazionato, che hanno magari un rapporto debito-PIL 10-12 volte inferiore all'Italia e magari hanno un rischio ovviamente diverso, secondo noi, certo, ma rendono di più. E questo è un paradosso del sistema, no? Da questo punto di vista. Quindi l'idea era appunto creare questa consapevolezza ulteriore. No? Da questo punto Giannico, adesso dobbiamo andare in pausa, ma mi chiedo, una volta che avete messo a nudo quelle che lei chiama molto elegantemente delle incoerenze nella metodologia di valutazione da parte delle principali agenzie di rating, avete mandato questo volume ai signori di Standard & Poor's, Fitch, Moody's? No, lo farete? Beh, diciamo che ognuno ha il suo metodo, ovviamente. Noi non pensiamo che il nostro sia infallibile o comunque che quello che siamo riusciti a studiare o a verificare sia perfetto. È sempre tutto perfettibile, perché non dimentichiamo che il mondo finanziario è dinamico. Ci sembra di poter rimarcare che, alla luce di tutto quello che è successo, specialmente negli ultimi 5 anni, sicuramente qualcosa deve cambiare, perché se no si rischia di assegnare un rating di merito di credito a qualcuno che non ne ha bisogno, o comunque in maniera fallibile o non esatta, e provocare comunque, come lei sa benissimo, che i flussi finanziari vadano sempre a chi non ne ha bisogno, mentre a quelli che hanno bisogno e magari investono il loro debito in maniera più produttiva, creare appunto delle situazioni, diciamo, di differenza nei mercati che poi diventano sostanziali. Questo è importante. Adesso grazie Giannico, ci fermiamo, abbiamo la nostra prima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo, proporremo ai nostri ascoltatori anche un paio di brani di questo libro, fra cui anche una parte relativa alla storia delle agenzie di rating e un'altra parte che invece riguarda il momento in cui lo Stato prende consapevolezza del fatto che il debito deve essere pagato, ma in realtà qualche volta c'è anche la tentazione di non portare avanti questo impegno, e quindi parleremo anche di questo. Arriva sempre, prima o poi, un momento in cui il debito deve essere pagato, oppure non pagato. Insistiamo su quest'ultima ipotesi per rendere chiaro fin da subito che, specie nel caso di debiti pubblici, è spesso la volontà politica del debitore che incide sulla decisione di saldare a qualsiasi costo quanto dovuto, oppure di optare per una tra le diverse modalità di default possibili. Infatti, se da un lato uno Stato può cercare in tutti i modi di ripagare il proprio debito, a costo di strozzare il contribuente con un aumento sconsiderato delle tasse e il prelievo forzoso dai conti correnti non è nient'altro che una tassa, oppure procedendo a un'ingente vendita di assets, se disponibili, o ancora stampando moneta e creando una prolungata fase di inflazione, sempre che ciò gli sia possibile, dall'altro deve tenere in considerazione i risvolti sociali che tali manovre possono creare. In effetti, qualsiasi scelta comporta in un certo grado un trasferimento di ricchezza tra soggetti differenti, che può essere socialmente e politicamente più o meno accettato o accettabile. Ad esempio, l'aumento delle tasse, specie se impostato su imposizioni sul patrimonio, non sempre colpisce in maniera equa e progressiva. E ancora, un forte aumento dell'inflazione potrebbe favorire significativamente chi è indebitato, in primis lo Stato, ovvero chi riesce ad adeguare il proprio reddito all'inflazione, ma sfavorirebbe enormemente i consumatori e i piccoli investitori. Ecco allora che l'opzione default potrebbe divenire la scelta politicamente più corretta in ambito domestico, anche se la peggiore in ambito internazionale. Uno Stato il cui debito è prevalentemente espresso in valuta estera ed è nelle mani di investitori internazionali potrebbe decidere di scaricare sugli stranieri e non sui propri taxpayers il costo di un default, subendo però come conseguenza l'impossibilità di ripresentarsi come emittente sui mercati internazionali per molto tempo, nonché una forte svalutazione del cambio accompagnata, eventualmente, da ritorsioni e limitazioni negli scambi commerciali con gli altri paesi. Circostanza questa che è toccata all'Argentina una decina di anni fa. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Il tema prescelto per quest'anno: sovranità in conflitto, e noi a Salvadanaio abbiamo portato un libro, Il rischio sovrano, conoscerlo, valutarlo e gestirlo, di Donato Giannico, Country Manager per l'Italia di Raiffeisen, che è una grande banca austriaca che naturalmente ha anche la sua diramazione italiana come società di gestione degli investimenti. Ma Giannico, mi dico adesso, a prescindere di tutto il contenuto di questo suo libro, c'è stata una fase in cui la società di gestione che lei rappresenta, negli ultimi 2 anni di forte tensione per quello che riguarda il nostro paese, ha avuto la tentazione, e l'ha trasformata anche in azioni concrete, di uscire dal nostro paese come dire, paese su cui investire? Siete usciti in maniera massiccia dai titoli di Stato per poi rientrare quando le acque si sono calmate? Diciamo di no complessivamente, perché normalmente le società di gestione non fanno scelte estreme. A meno che non ci siano le condizioni, ma sono condizioni diciamo molto molto importanti, di uscire temporaneamente da una situazione. Faccio un esempio a proposito: qualche anno fa, vi ricorderete, il Giappone ebbe un rischio atomico non indifferente, per cui la maggior parte degli operatori finanziari uscirono temporaneamente in maniera massiccia. Questo non è, voglio dire, per quello che stiamo assistendo per l'Italia, perché comunque normalmente i gestori usano la tattica del sottopeso e del sovrappeso, quindi cercano diciamo di limitare il peso che hanno nei loro portafogli, in questo caso delle obbligazioni italiane, laddove vedono un rischio, così come di aumentarlo laddove vedono di opportunità. Quindi sicuramente ci sono state delle uscite nei tempi in cui ovviamente gli spread erano intorno a 500, poi ci sono state anche delle prese di beneficio quando invece gli spread hanno incominciato a diminuire, e quindi si è ritornati diciamo in posizione. Però non sono mai scelte estreme, questo bisogna assolutamente sottolinearlo. Magari qualche fondo americano in realtà in maniera estrema ha agito in certi momenti, soprattutto nell'estate di 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a fare amicizia, Giannico, lei se lo ricorderà, con la parola spread, della quale non avevamo mai sentito parlare nessuno dei tanti, neanche noi giornalisti, perché io faccio i mercati, faccio il commento di borsa tutti i giorni, ma mi ricordo che prima dell'estate del 2011 mai e poi mai avevamo dato appunto come indicazione quotidiana il differenziale tra l'Italia e la Germania sul titolo decennale. Quindi ritengo che in quel momento in realtà forse un atteggiamento un po' dirompente, forse non era il vostro ma di qualche grande fondo americano in realtà ci sia stato, non trova? Sì, sono d'accordo, esatto, ma questo è, come dire, più legato alla tecnica di gestione. Ci sono addirittura di fondi americani che mi risulta che abbiano disinvestito il proprio debito in certi momenti, ma questo è legato più alla tecnica di gestione. Diciamo che per quello che ci riguarda siamo più votati a una stabilità di rendimenti, per cui non facciamo mai scelte estreme, perché misuriamo quello che è definito in finanza il budget di rischio. Quindi vediamo che ci sono degli operatori finanziari che invece hanno diciamo scelte più estreme, e magari, voglio dire, la volatilità dei rendimenti a livello storico è più importante, mentre per quanto ci riguarda è chiaro che non facendole abbiamo diciamo una stabilità maggiore dei rendimenti nell'ambito degli anni, no? Da questo punto di vista. Allora, io invito, se vogliono, i nostri ascoltatori ancora ad intervenire all'800240024, a scriverci al 349-238-6666. Spudoratamente un'ascoltatrice molto simpatica ci scrive appunto: ma per quale motivo dovremmo comprare questo libro? Adesso magari facciamo un po' di pubblicità a Donato Giannico, ma molto banalmente noi stamattina abbiamo portato perché era perfettamente allineato al tema del Festival dell'Economia di Trento. Ci sono tante spiegazioni utili sulla genesi della crisi nella quale ancora navighiamo, poi sicuramente la seconda parte è più complicata, forse più per profili professionali, però ci sono anche cose molto interessanti sulla storia, ad esempio, delle agenzie di rating, e fra qualche minuto vi faremo sentire anche una parte dedicata proprio a questo. Un ascoltatore invece, Giannico, ci scrive su Facebook: aver ceduto qualche anno fa la sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea, pur in assenza di un'unione bancaria europea, che è un altro miraggio probabilmente per le condizioni politiche attuali, un'entità di fatto indipendente dai popoli europei ci ha esposto ai rischi della speculazione finanziaria. I potenti della finanza si stanno comprando a pezzetti il nostro patrimonio, le nostre ricchezze stanno diminuendo, il nostro lavoro è svalorizzato. Penso che un popolo realmente libero non accetterebbe mai questo sistema abilmente imposto dalle banche internazionali per evidenti motivi. Adesso non riesco a capire molto bene la seconda parte della riflessione, ma sulla prima, Giannico, lei è d'accordo? Aver ceduto la sovranità monetaria alla BCE ci ha esposto ai rischi della speculazione o in realtà ci ha protetto da molti altri rischi? Sicuramente ci ha esposto ai rischi della speculazione perché, come dicevo prima, facevo ragionamento per il Giappone, è chiaro che quando esponi il tuo debito ai mercati hai dei benefici da una parte perché comunque hai dei creditori diversi che ti sostengono, però è anche vero che ti esponi ai mercati finanziari, che sono fatti non solo da investitori, ma ricordiamolo, anche da speculatori. E questo provoca dei flussi importanti anche attraverso quelli che chiamiamo derivati sui mercati finanziari, quindi fanno oscillare molto i prezzi. E quindi l'ascoltatore ha tremendamente ragione da questo punto di vista. Sicuramente ci ha provocato anche dei benefici dal punto di vista, diciamo, dei tassi, questo sì, però purtroppo quello che oggi noi paghiamo è il fatto che all'interno della comunità economica europea ci sono delle velocità differenti e chiaramente vince chi sta meglio e perde chi sta peggio, e chi sta peggio è esposto, questo è inevitabile. C'è anche da dire che questa famosa cessione di sovranità forse ha consentito anche a Mario Draghi di pronunciare le famose parole dell'agosto dello scorso anno: compreremo illimitatamente i titoli di Stato e vi assicuro che questo sarà abbastanza per arginare appunto gli effetti della crisi che si era di nuovo acutizzata appunto in quella fase, per cui probabilmente bisogna guardare anche il bicchiere mezzo pieno e guardarlo da questo punto di vista. Giannico, non so se lei è d'accordo. Beh sì, diciamo che Draghi di fatto in ultima istanza ha messo il muro, quindi ha fatto sì che i mercati finissero quantomeno di forzare la speculazione, specialmente nei nostri confronti, e credo che avevamo provato sulla nostra pelle, ricordo novembre, dicembre, diciamo di appunto un anno e mezzo fa, quando gli spread erano molto più elevati, e quindi sicuramente sono d'accordo su questo. Mario Draghi ha posto il muro e da quel punto di vista ci ha un po' dato la ciambella di salvataggio in questo senso. Esatto, questo senso. Senza però appunto dimenticarci che in ogni caso l'Italia è stata richiamata a fare i compiti a casa, come ieri anche la Commissione europea ha ribadito, facendoci uscire dalla procedura appunto di infrazione. Allora ci fermiamo adesso per la prossima pausa pubblicitaria. 800240024, numero verde, ancora avete tempo se volete prenotarvi per intervenire. Poi vi faccio sentire una pillola legata invece alla storia delle agenzie di rating. La domanda che naturalmente a Donato Giannico voglio farlo, che ha scritto questo libro, che è anche un po' come dire, dal profilo intellettuale anche un po' alto, non è sicuramente un ABC della crisi della finanza, anche se qualche parte è sicuramente molto molto molto chiara ed utile anche in questo senso, perché dovrebbe essere utile ad un piccolo risparmiatore conoscere anche tutti i temi dei quali stiamo parlando questa mattina. È Eccoci ritrovati in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, qualche piccolissimo microscopico intoppo tecnico, ma è naturale, quando siamo in trasferta le cose sono un po' più complicate, quando facciamo questo ponte tra la città prescelta per la trasferta e Milano, però sempre bravissimi naturalmente i nostri tecnici che ci proteggono da qualunque piccola intemperie tecnologica. Allora noi oggi, prendendo a spunto il tema del Festival dell'Economia Sovranità in Conflitto, molto alto se vogliamo, ma comunque che è diventato molto anche tema, oggetto di dibattito anche nella quotidianità di ognuno di noi, prendendo a spunto appunto questo argomento abbiamo invitato l'autore di un libro, Il rischio sovrano, conoscerlo, valutarlo e gestirlo, che è Donato Giannico, numero uno per l'Italia del gruppo Raiffeisen, e stiamo parlando appunto della questione legata anche alla entità dei debiti pubblici dei paesi dell'Eurozona, e soprattutto una grande parte di questo libro è dedicata naturalmente anche all'Italia, la cui condizione del debito pubblico l'ha portata, come sapete bene, ad una crisi molto forte negli ultimi anni, lo spread alle stelle, una forte disaffezione da parte della comunità finanziaria e degli investitori internazionali che ci hanno crocifisso in certi momenti, come sapete bene. Adesso la situazione appare più tranquilla, ma naturalmente non possiamo abbassare la guardia. E allora, Donato, Giannico, perché tutti questi argomenti che magari fino a qualche anno fa eravamo abituati sicuramente a trascurare enormemente dovrebbero oggi interessarci di più? E lo dico in riferimento soprattutto al piccolo risparmiatore che è ancora molto affezionato al titolo di Stato italiano, un grande investitore in BOT e BTP. Come dicevo prima, dobbiamo incominciare a considerare che esiste una probabilità che anche gli stati possono fallire, ovvero ovviamente non ci auguriamo questo del nostro, che siamo cittadini italiani, però in finanza, giusto per tradurre alla risparmiatore il concetto del rischio, il rischio si calcola con un numero, non è un concetto astratto, quindi quando abbiamo imparato che anche gli stati erano sull'orlo del fallimento, stiamo parlando per esempio della Grecia nel 2010, abbiamo dovuto incominciare a gestire il rischio calcolandolo, quindi in finanza il rischio si cerca di valutarlo, calcolarlo e gestirlo, e quindi dobbiamo misurare la probabilità che un accadimento di questo genere accada, e quando succede che noi si misuri le probabilità dobbiamo cercare di divulgarla questa probabilità, perché ricordiamo che fare diciamo un investimento in titoli di Stato non è propriamente un investimento ma è un prestito, quindi stiamo prestando dei soldi a uno Stato in questo caso, ma pur sempre li stiamo prestando, quindi l'idea qual è calcolare la probabilità che questa controparte ce li renda questi soldi, e questo è il rischio primario, come dicevo prima, che bisogna valutare, e oggi non ci sono molte alternative per valutarlo, e quindi noi abbiamo cercato di fare uno sforzo in questo senso per capire come fare in questo caso. Giannico, lei ritiene che ci sia stato davvero un momento di crisi particolarmente dura e forte in cui l'Italia ha rischiato davvero di essere insolvente sui mercati internazionali? Quando avevamo lo spread intorno a 500, ripagare il debito pubblico significava qualche decina di miliardi di euro in più, e quindi più disavanzo, e quindi aumentare la problematica del circolo vizioso, che significa andare diciamo verso la fine. Il rischio c'è stato, ma anche qui è aumentato quel rischio, grazie a Dio non è successo, ma è aumentato notevolmente in quell'epoca, quello assolutamente. La pillolina sulla storia delle agenzie di rating, sentiamo se è pronta da Milano. Breve storia delle agenzie di rating in relazione al rischio sovrano. Nonostante negli ultimi secoli siano stati diversi gli stati finiti in bancarotta, ad esempio la Spagna è fallita 7 volte tra il XVII e il XIX secolo, la Francia 8 volte tra il XVI e il XIX, mentre nel XIX secolo l'Austria e la Prussia 5 volte, solo verso la fine del XIX secolo alcuni operatori indipendenti hanno iniziato a valutare il rischio sovrano. Si trattava esclusivamente di banche, le cui valutazioni sul rischio sovrano erano strettamente connesse e indotte da finanziamenti statali elargiti dalle stesse istituzioni finanziarie. È stato solamente nel 1900 che Moody's, per prima, ha redatto un manuale relativamente ai rating sovrani come entità non bancaria e indipendente, anche se occorrerà attendere il 1918 per avere il primo rating sovrano in assoluto. Tutto ciò non accadde per caso, dato che fu proprio in quel periodo che gli Stati Uniti salirono in cattedra sullo scacchiere internazionale, diventando il più importante stato prestatore a livello globale, mentre New York stava ponendo le basi per diventare la capitale finanziaria mondiale. Nel 1922 iniziò poi la sua attività sui rating sovrani anche Standard & Poor's, mentre Fitch iniziò nel 1924. Entro il 1929 furono pertanto emessi circa 120 rating sovrani, ma da quel momento vi fu una notevole riduzione dell'attività di rating, dovuta alla crisi finanziaria del 29 e dei diversi fallimenti sovrani che ne seguirono. Avete sentito dunque sicuramente la nascita delle agenzie di rating, delle società di rating, ha avuto degli obiettivi molto nobili, negli ultimi anni invece ci hanno fatto solo particolarmente arrabbiare, e per non parlare poi anche degli errori clamorosi che hanno fatto, perché ricordo ancora, per girare un pochino il coltello nella piaga, che il giorno prima del suo fallimento, della sua dichiarazione di bancarotta, Lehman Brothers aveva ancora il massimo grado di affidabilità. Un ascoltatore, Giovanni da Modena, buongiorno, se ce la facciamo, vi siete svegliati proprio negli ultimi minuti della trasmissione, ci fa comunque piacere. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, volevo una semplice informazione. Un piccolo investitore al momento attuale, come fa a fidarsi di queste società che definiscono un'azione, come si può dire, potenzialmente rischiosa oppure non rischiosa, dopo tutti gli errori che hanno fatto? Dove potrebbe... Infatti, Giovanni, guardi, lei ci apre adesso con questa domanda in realtà un quesito che potrebbe permetterci di fare un'altra intera trasmissione. In realtà abbiamo solamente 2 minuti, però Giannico, la domanda è assolutamente legittima. Dopo tutti gli errori che sono stati fatti, probabilmente anche dalle società di gestione del risparmio, che in certi frangenti qualcuno ha sicuramente anche sottovalutato la portata della crisi attuale, nessuno la immaginava mai quando i primi sudamericani hanno cominciato a non rimborsare i suoi mutui, che quella situazione potesse trasformarsi nella crisi attuale. Detto questo, Giovanni dice: ma la fiducia che fine ha fatto? E chiudiamo domanda. Con questo nell'ultimo minuto che ci rimane. Sì, diciamo che la cosa che bisogna fare da qui ai prossimi anni è creare molta informazione su questo tema, moltissima. Chiaramente pretenderla, cercarla e autocostruirla, direi anche, sì. No? Sì, sono assolutamente d'accordo. Più formazione c'è, più cultura c'è in questo ambito, e meno si rischia. Questa è la cosa più importante. Questo poi farà sì, io sono sempre tendenzialmente ottimista, che si valutano in maniera, diciamo, abbastanza neutra, ma soprattutto abbastanza consapevole, quelli che sono poi i rischi, no? In questo senso, perché ovviamente, mettendomi nei panni del piccolo risparmiatore, credo che non è assolutamente facile fidarsi, cioè stiamo parlando di finanza e molti concetti non si conoscono, addirittura tanti operatori li danno per scontati. Credo Benissimo. Che la formazione sia assolutamente importante. Grazie a Donato Giannico per essere stato con noi. Noi da Trento Salvadanaia abbiamo terminato, grazie a Valentina Magri e Laura Faggin, Paolo Corleone, non so che ci sia lo studio tecnico a Milano, lo salutiamo domani, grazie a Davide Ciocia, a tutti, buona giornata, domani. Salvadanaio.